Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera da Michele, da Maurizio Calzavara. Dicevo Michele, perché sei tornato? Per quel motivo abbiamo iniziato la stagione. Buonasera da Maurizio Calzavara, Michele Tosoni in regia, Roberto Baldi che guiderà le webcam. E buonasera ai Tilt. Buonasera. Buon viaggio. Ciao, buonissimo, buonissimo. Bene, importante. Il mercoledì è il giorno importante del rock dal vivo, chiaramente, una nostra consuetudine. Tu sei venuto un po' di anni fa con un'altra formazione, te lo ricordi? Sì, sono venuto con gli Elizabeth. Esattamente, con gli Elizabeth. Io sono molto contento di avervi qui stasera, perché innanzitutto è un disco nuovo il vostro, e perché voglio sapere chi siete, come mai sono nati i Tilt. Allora, i Tilt nascono la bellezza di ormai 11 anni fa. Per volontà delle due persone. Chi sono le due persone? Luca Vinetti alla chitarra e Paolo Riva alla batteria. In questo caso molto ritmo, un rullantino, ma è sempre una batteria. E due spazzoline. Esattamente. A cui si sono uniti nel tempo Roberto Pinotti al basso e molto tempo dopo io alla voce, Luca Ferro e Marco Montanari alla chitarra. Esattamente. La formazione iniziale aveva altri diciamo interessi, o comunque aveva altre coordinate musicali. Altre vie, sì, hanno fatto, senza di noi hanno fatto due dischi praticamente autoprodotti, comunque con un appoggio importante di persone della nostra zona, appunto vicino alla Reggio Emilia. Con sonorità molto vicine ai Rolling Stones o comunque... Quindi eravate rocchettari. Sì, quelli... ma lo siamo ancora. Nella nostra zona sono tutti rocchettari. Non proprio tutti, ma... ma il rock fa bene alla salute. Perlomeno lo erano, ecco. Lo erano. Bene, dimmi allora. Praticamente però i Tilt attuali sono nati circa 3 anni fa, nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto, a questo disco, in cui hanno preso forma queste sonorità nuove, un po' più morbide, un po' più sofisticate. Sì, sofisticate, un intreccio, qualcuno parla, questi input, questi collegamenti ideali con Coldplay, con gruppi inglesi, soprattutto inglesi tra virgolette, chiaramente, sempre tra virgolette. Esatto. Perché esatto. Questa è la vostra musica. Poi se ci sono i collegamenti si possono fare tanti discorsi, però si parte dalla vostra musica. Sì, da un punto di vista musicale ci sono forti influenze dei nomi che hai appena citato, Coldplay, Radiohead, soprattutto per quanto riguarda le sonorità. Però... soprattutto la linea melodica, il cantato, sono molto, secondo me, rimangono dentro caratteristiche e coordinate melodiche italiane o comunque che magari arrivano anche da altri generi totalmente estranei alla musica melodica italiana o al rock, pop o britpop inglese. E dobbiamo sottolineare che voi incidete per la Mesca, un'etichetta storica dell'indie italiano che poi finalmente, dopo un po' di anni di oblio, posso dire questo, è uscita fuori. E grazie a questo ringraziamo quindi anche Manuela Longhi, che è stata un nostro la gancio. Nostra mamma, esatto, un nostro gancio per poter venire qua. Non so quanto prenderà bene questo questo mamma, però. E grazie anche come ad Alberto Prisco, che assieme a Manuela vi ha voluti qua stasera, che è il nostro direttore artistico. No, esatto. Infatti grazie anche a voi per l'ospitata, perché ce ne fossero di radio indie come ce ne fossero delle mescal discografiche esatto. Indie. Ma è ritornata sulla mescal, è ritornata fuori dopo un po' di tempo, e questo è positivo. E la radio, la nostra radio è sempre stata indie, perché ha sempre continuato a portare avanti un discorso di qualità. Gruppi emergenti, bisogna far sentire la gente nuova che suona, chiaramente. Le classifiche sono popolate da gente già conosciuta, non servono. A meno, questa la vedo io, la sento così. Sì, no, poi magari... Le classifiche magari non sempre sono lo specchio di quello che in realtà la gente ascolta, sono magari leggermente... Un po' costruite. Sì, esatto. Cioè dire che un disco è primo in classifica non necessariamente vuol dire che tutti ce l'hanno a casa. Ti ricordi la famosa polemica di anni fa? Vuol dire che hanno stampato tante copie. Il famoso disco in classifica, dimmi. Vuol dire che hanno stampato tante copie e sì, ne hanno distribuite altrettanto. E sono finiti in vari garage, vari magazzini. Esattamente. Magazzini. Sì, ma... Questo è una bella polemica da aprire, la faremo un'altra volta. No, è per questo che noi non abbiamo il disco con noi, perciò speravamo... per quello. Non è vero, il disco è là, è sul CD. Il disco si chiama Evoluzione delle ombre. Evoluzione delle ombre. C'è un titolo significativo. Non dico che non sia un titolo dark, ma qualcuno potrebbe anche dire decadente, Evoluzione delle ombre. Beh, decadente sicuramente, ma è un po' tra i vari significati che può avere questo che titolo, che principalmente ognuno deve farsi, sì, certo, farsi il proprio significato, però l'era in cui viviamo è parecchio decadente, anche se sembra tutta colorata, tutta frizzante, in realtà è la decadenza pura, cioè, è oscura. Viviamo in un'era in cui tutti vorrebbero essere felici, ma in realtà sta crollando tutto sotto i nostri piedi. Alcuni dei pezzi sono un po' più diretti secondo questo punto di vista. Alcuni dei pezzi sono piuttosto rockettari, per esempio il singolo non è proprio rockettaro, però è un pezzo di apertura che deve muovere la gente. Che esatto, è, esatto. Almeno il primo pezzo, la prima traccia, parlo della prima traccia. Però comunque vuole anche quel pezzo affrontare un po' la diversità e l'essere diversi dalla massa, da tutti quelli che magari... ogni venerdì, ogni sabato vanno sempre negli stessi posti, sempre con il drink in mano, lo stesso drink tutti i venerdì. Parla un po' di un personaggio o maschile o femminile che si distacca un po' da questa realtà che vede un po' tutti omologati e uguali. Voi non siete amanti dell'omologazione, giustamente? No, assolutamente no. Bisogna variare. Esatto. Qualcuno dice anche svariare, ma variare è meglio, secondo me. Sì, assolutamente. Tra l'altro ci sono anche delle leggende sull'evoluzione delle ombre. Dimmi. Nel senso che noi, mentre stavamo registrando il disco, abbiamo fatto una foto al fonico, che eravamo all'Esagono, che è il fonico? Rinomato studio di Rubiera. Il fonico si chiama Carlo Pinna, che ne approfittiamo, lo e salutiamo. Produttore artistico. E salutiamo. Produttore artistico. E io stavo facendo una foto con un cellularino normalissimo da 2 soldi. Ho fatto la foto e si vede un'ombra. Ah, però, vedi, sullo sfondo, vedi, c'è un collegamento. Ed era il fantasma dell'Esagono. Quindi l'abbiamo anche ringraziato. È stato anche ringraziato nel disco, cioè tra i ringraziamenti, cioè, perché ha portato bene comunque. Ecco, quindi potrebbe anche essere lui una delle ombre. Allora, Evoluzione delle ombre, il titolo del disco vostro in uscita, appena uscito. Ne parliamo come musicalmente. Facciamo sentire un pezzo, una traccia. Che traccia avete scelto per cominciare a sentire il disco? Prima traccia, Pallida. Traccia numero uno. Questa era una domanda trabocchetta. Quella di cui stavamo parlando. Adesso la sentiamo e poi ne parliamo ancora. Pallida un po' spenta, Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, quindi Pallida sembrava un pezzo assolutamente... L'avete fatto proprio live, nel senso l'avete inciso quasi live questo qua, secondo me. Prima traccia, prima l'idea, take, l'idea era proprio quella di, arrivare subito all'impatto immediato, che è proprio da questa sensazione di impatto immediato. Fammi un po' di sottofondo, va bene alla salute. Pensavo di rifare il riff di Pallida. Va bene, proprio bene alla salute. Dimmi Luca. Sì, l'idea era proprio quella, anche se poi in realtà il disco si sviluppa in maniera diversa, diventa un po' più intimo con l'andare delle tracce. Però volevamo aprire in una maniera abbastanza dura, abbastanza diretta. Sì, ma abbastanza energica, che la gente si deve muovere. Più che muovere, si deve capire che si deve andare sulle vostre, le vostre percorsi, i vostri binari, esattamente. Non abbiamo chiesto permesso, ecco. Esatto, noi arriviamo così, subito, belli diretti. Ed è giusto che sia così. Tu hai fatto questa dichiarazione, prima l'avevi accennata, ma adesso la ampliamo, è molto interessante, a proposito del titolo. Dunque, nell'oscurità dietro il velo delle apparenze, quindi oscurità, parlavamo del discorso che molta gente cerca, c'è il sole ma non c'è proprio il sole del tutto, assolutamente, muovono i fili, tutto sembra normale, il gioco delle parti distrae molti, mentre i pochi, come hai detto giustamente te, osservano stupiti l'evoluzione delle ombre. Quindi tu l'hai ampliato il discorso prima, però parte da questa frase che hai detto praticamente. Sì, il concetto generale. Il concetto generale, sì, sì, sì. Se stiamo parlando di i molti osservano stupiti e soprattutto i pochi muovono i fili in un'era, in un mondo che in realtà... Ma qualche volta li muovono anche male, scusa, dici? Sì, sì, li muovono male per chi sa leggere diciamo i segnali, chi magari si è distaccato dal lavaggio del cervello, delle televisioni, della politica, della religione, di quant'altro, riesce più o meno a scorgere il gioco che è in atto. I pochi sono sempre i soliti, credo da secoli, che gestiscono il mondo, gli uomini, la terra, giocano come se fosse questa terra fosse un monopoli. E i molti siamo noi, o la maggior parte delle persone, presi da tutti i problemi della vita. Questo vortice di cose. Che è sacrosanto, voglio dire, chiunque ha i suoi problemi e in genere non ha tempo per guardare quello che succede a livello, diciamo, politico, geopolitico. Certo. Benissimo, è chiarissimo il concetto. I pochi osservano stupiti, proprio questo. Chi riesce a scorgere che qualcuno sta manovrando questo mondo osserva stupito il fatto che la maggior parte delle altre persone in realtà non si accorge di nulla, ma è tutto davanti ai nostri occhi. Basterebbe soltanto un po' di attenzione e di togliere lo sguardo da quello che è il lavaggio veramente mentale che tutti i giorni viene fatto. Sì, sì, viene fatto da quando siamo alti così fino in età adulta, certo, fino alla vecchiaia. Certamente, è proprio così. Abbiamo parlato musicalmente il pezzo, come è stato costruito. L'idea però di questo impatto musicale, come è nata? Io voglio sapere dove è nato, da un riff di chitarra, da un momento del piano, dimmi. Praticamente l'idea iniziale era che c'era questo riff... che sotto un certo aspetto è anche molto semplice, nel senso che è una scalata tranquillissima. Allora, l'idea era fare però un ritornello che spostasse che potesse tutto. Prendere. Quindi, ad esempio, abbiamo battezzato di fare un ritornello in 7, anziché in 4. Per i non addetti ai lavori, cosa vuol dire ritornello in 7? L'esempio è questo, anziché essere 1, 2, 3, 4, l'effetto è questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Praticamente... È come se mancasse una battuta infatti è incasinato, noi ci sbagliamo sempre. Però qui è per questo che non la facciamo dal vivo, mi ha mandato sul cinema. Però posso dire una mi cosa? Mi sono fregato da solo, però va bene. L'immagine, cioè l'ombra di Keith Richards che avanza, però secondo me. Il Bon Keith gioca sempre su queste cose. Sempre gioca. A proposito, parlando di Rolling. Ogni tanto sfruttiamo questa cosa, nel senso che secondo me Keith Richards Richard è un genio. Noi conosciamo spesso chitarristi roba varie, perché sai, suonando tutti ci si conosce, no? E spesso si sente dire tipo, non so, Keith Richard ha un ottimo chitarrista, poi però nessuno l'ha mai ascoltato. Cioè, ci sono questi problemi invece... che invece secondo me lui, Chuck Berry l'ha ascoltato, ecco, Chuck Berry, no, sì. è stato Keith Richard ad ascoltare Chuck Berry, te lo dico io. E lui, Chuck Berry, non so, per fare un esempio, sono chitarristi incredibili. Sono d'accordo. Nel senso, loro con due stupidate, che sanno fare solo loro in quel modo lì, e uno dice un la, cioè chiunque poteva fare un riff del genere, ma solo quando loro lo fanno con la chitarra scordata, scaravoltati, in piedi, in un qualunque modo, solo il loro è vero rock and roll. Sì. È incredibile. Scusami, ma uno che ha inventato il riff di Satisfaction, dobbiamo solo sollevarci in piedi, no, e stare sempre in piedi. Nessuno può commentare o dire niente. Anzi, bisognerebbe ascoltarlo. Io lo dico sempre. Bisognerebbe anche leggere la sua autobiografia. Ho iniziato a leggere. Me l'ha regalata Paolo. È molto interessante. Bisognerebbe capire anche la sua condizione mentale psicofisica in quel particolare momento. Per avvicinarsi un po' per un chitarrista, ad esempio, lui suona senza una corda. È vero, sì. Che uno dice, ma perché le due corde là sotto sono inutili, fondamentalmente, no? Togli quella sopra, però il gioco è quello lì, infatti. Cioè, lui dice, non la usavo, esatto. Cioè, perché la devo tenere? Mi dava solo fastidio. Il gioco è geniale, secondo me, come cosa. Ok, dovevamo citare Keith Richards perché alcuni di voi avevano un'origine legata forse ai Rolling, dai. È una cosa positiva. No, infatti sì, alla grande. Questi sono complimenti, Ciao. Adesso iniziamo a suonare allora, con tutte le corde per stavolta. Allora, guarda, ti facciamo il nostro primo singolo, che è stato un po' quello che ha dato il via al disco. Allora, si chiama Paura Mai. Ha dato il via al disco e ha dato via anche all'avventura in Mezcal, perché è stato un po' il pezzo che ha convinto Valerio Soave, che non abbiamo ringraziato e salutato prima. La mente della Mezcal. E ha convinto Valerio a farci proseguire il viaggio col Mezcal. Ed è il punto, diciamo, di partenza. Benissimo. Ok. Che cosa c'è? Sei seduta ad aspettare e non riesci più a parlare. Vuoi scappare via da qui? Hai deciso così. Ma non basta per uscire e cominci a girare con due dita sulle labbra. Sono dentro di te le parole che non hai trovato mai. Vedrai, le scoprirai. E cerca intorno a te. Sono brividi, emozioni e forse guai. Ma paura mai? E che cosa c'è? Non so proprio cosa dire. Tutto quanto può finire. Anche quando non vorrei, che ora è? Già le 7 devo andare, ho la borsa da rifare, io da solo posso stare, sono dentro di me. Le parole che non ho trovato mai, vedrai, le scoprirò e cerco intorno a me. Sono brividi, emozioni e forse guai, ma paura mai. Thank you. Le parole. E sono dentro di me. Le parole che non ho trovato mai. Vedrai, le scoprirò. E cerco intorno a me. Sono brividi, emozioni e forse guai. Ma paura mai. E sono dentro di me. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Sì, c'è un bel ascolto, siamo d'accordo. Eravamo impreparati, eravamo qua che facciamo due chiacchiere. Allora, Luca Ferro alla voce, hai fatto un'ottima performance. Grazie. Poi Marco Montanari alla chitarra, Luca Vinetti alla chitarra, Roberto Pinotti al basso e Paolo Riva alla batteria di Dota stasera, ma insomma è una batteria. Eh sì. In caso è un grande pezzo pop questo qua, mentre l'avete fatto, un grande pezzo pop che si allarga e... Si allarga e diventa forte verso la fine, chiaramente. All'inizio è calmo, rilassato, quasi romantico, e poi lentamente le cose cambiano. È un pezzo che stiamo imparando a riscoprire, soprattutto in acustico. E questo l'avete fatto benissimo. Perché posso dire che è un pezzo pop. Sì. Tutte le più grandi band indipendenti hanno dei pezzi pop. Mi pare giusto. Gli After Hours hanno Non è per sempre. Non prenderla sul personale. No, sto scherzando. È un pezzo. Ha detto pop? Ha detto pop. Ti senti offeso? Vuol dire popolare. Io un pochino, ho dovuto fingere di essere contento, ma in realtà. Ma è scatenato stasera. Non è lo stesso. È un pezzo in cui ha collaborato il grandissimo Mao. Dei Mauro e la rivoluzione. Certo, esatto. È una persona straordinaria. Come l'avete conosciuto Mauro? L'abbiamo incrociato all'Esagono. Ah, che è un locale famoso. Sì, è lo studio di registrazione, c'era Locanda, sì, era uno studio dove sono nati grandissimi album degli anni metà, fine anni 90. E non ne citeremo neanche uno. Per non fare... Siamo tutti qui che aspettiamo un solo disco. Buon compleanno Elvis, ecco, diciamo. Esatto. Diciamo quello. Ma che... anche a grandi dischi di Biagio Antonacci, sì. di Neck, dei Modena City Ramblers. Sì. C'è l'umore giusto, ecco, possiamo dire questo. C'era perché purtroppo lo studio adesso, diciamo, in parte si è trasferito, ha mutato. Infatti il fantasma dell'Esagono è rimasto un po' spiazzato, speriamo che non aggredisca gli avventori di questo posto. Ci siamo incrociati perché appunto circolavano vari personaggi, Mao, Morgan, Omar Pedrini, eccetera, e noi eravamo spesso lì perché stavano cominciando i provini, eccetera. Abbiamo conosciuto Mao ed è nata un'amicizia subito sincera, forte. E il primo pelo, insomma, immediata. Siamo andati oltre la questione musicale subito, e poi da lì, parlando, conoscendoci, gli abbiamo fatto sentire alcune cose. E su questo e sull'altro singolo che andremo a sentire più tardi, lui si è offerto e noi volentieri abbiamo preso la sua esperienza di darci una mano su alcune melodie, sul testo in parte, infatti firma in parte anche questi testi, e è un'esperienza sempre positiva avere a che fare con personaggi che comunque il tempo, se vogliamo dire, hanno messo un po' da parte, purtroppo personaggi che hanno dato tantissimo alla musica. Però il mondo della musica, il mondo dello spettacolo è così, ogni tanto traccia una linea netta e se sei un po' di qua un po' di là rimani... Vengono dimenticati. Però è un personaggio di grandissima esperienza, grande spessore, una persona da cui prendi molto. Noi abbiamo questa cosa di incontriamo persone di così tanto valore vogliamo carpire un po' il segreto, certo, del loro, certo, lavorare. Con lui comunque è stato così. È uscito, dimmi, anche il disco nuovo di Mao, sì, che tra l'altro se l'è autoprodotto, secondo me è molto bello. Disco stupendo. Sì, esatto. Stupendo. Era bello durante le notti andarlo a trovare. Mentre costruiva sto dopo, mentre, esatto, costruiva. Il bello dello studio è anche questo, che non, certo, ci sono orari. Tu sai, è che vero, se sei in sintonia con la persona con cui stai incidendo, puoi andare in qualsiasi ora, lui ti accetta, e anche c'è una compartecipazione fra di voi. No, tant'è che, per dire, noi eravamo in studio poco prima di Mao e dopo Mao. E Mao era in studio nel periodo di agosto, allora praticamente la situazione era che anche il fonico era in vacanza. Quindi noi facevamo le prove, andavamo là, lui andavamo là in automatico, lui diceva: dai ragazzi, adesso che ci siete voi, io posso andare di là, faccio una chitarra e voi mi fate recchio, perciò in realtà abbiamo partecipato alla realizzazione del suo disco. Una mano chi dà l'altra, chiaramente. Quindi ci siamo aiutati tutti a vicenda, certo, poi certo. Era un'estate dove eravamo sempre in baracca tra una... lui anche i King of Convenience, che esatto, è poi esatto, c'erano anche i Kings, cioè era più o meno... Era o veniva lui in sala prove o tutti all'esagono, una roba del genere. Ma questa è, scusami, questa è un'atmosfera che si è un po' dimenticata adesso. Un ambiente familiare. Esatto, si è dimenticata nel senso che la gente non è più. Una volta negli anni 60, 70 c'è proprio la voglia di suonare assieme al di là delle etichette. Veniva, si suonava, si partecipava. Adesso come mai secondo voi c'è questa ritrosia a fare un discorso di questo perché genere? Tutti hanno paura del vicino di casa. Ah, perché tutti hanno paura del vicino di casa, forse hai detto giusto. Cioè, paura la che... voce della verità è arrivata in sordina. Era Paolo Riva, ha detto Riba. Forse hai detto una cosa giusta, cioè uno ha paura che l'orto del vicino sia più grande, tutta un po' di invidia, non so se si chiama invidia. Ma in realtà però questa è una cosa che c'è, e secondo me c'è un po' da sempre, soprattutto dalla fine forse anni 80, inizio anni 90, così i gruppi hanno sempre... Si dice di... grande fratellanza, ma in realtà non c'è. Però si dovrebbe combattere un po' questa cosa, sì, perché tutti guadagnano, tutti ne guadagnano. Se tutti si fanno le cose, grazie a questi a unirsi, sono nati le grandi scene musicali, il grunge, il thrash metal, il metal, queste cose qua. C'erano alcune zone dove da dove sono venuti fuori i grandi gruppi di un, certo, particolare genere. C'era Seattle, c'era, sì, la, certo, Bay Area di Los Angeles, di San Francisco, certo, eccetera. New York ha avuto le sue grandi scene negli anni 70, 80, 90. E bisognerebbe tentare di unirsi, ma in realtà ognuno ha sempre paura di farsi soffiare il pubblico da quell'altro. Ma questa è una cosa italiana, secondo te? Una cosa... Ma sai, in Italia ci sono le briciole, quindi se briciole ci fossero delle belle pagnotte ci sarebbero meno problemi. Secondo me anche quello, cioè nel senso che... Luca è sempre caldo, visto che... Sì, veramente. No, nel senso che io vedo che, cioè, spesso si litiga anche all'inizio. È vero. Cioè nel senso, uno fa un concerto in più in una piazza e allora in automatico l'altro dice: ma lui l'ha fatto, lo devo fare anche io, e gli scatta la diatriba. Anziché dire: il prossimo anno organizziamolo insieme, così ne facciamo due di date. Ma la gente non ci pensa a questo, almeno non si sa per quale motivo. Non lo so, arriva strana questa cosa, ma noi nel nostro piccolo, tra Tilt comunque, sì, Elisabeth, tentiamo ognuno di fare qualcosa, sì, assieme. Io sono l'esempio dell'insieme delle due cose. Certo, ecco. Certo, esattamente. Il mio cuore è diviso per metà. Da metà tra Elisabeth e i Tilt. In ugual maniera, quindi il concetto dovrebbe essere secondo me così per tutti. Gli stessi Subsonica che erano in Mescal, c'erano anche in Motel Connection. Sì, ecco. Vero. Quindi sono realtà, secondo me, dai quali bisognerebbe prendere spunto ed esempio, più che segarsi a vicenda, ecco. Benissimo, 22:37, sentiamo un altro pezzo da disco, cosa dite? Io la scaletta non la so, tu la ricordi a memoria, Luca? Ascoltiamo un pezzo che, soprattutto, non so se qui c'è molta nebbia in certi periodi. Ma stamattina c'è un nebbione. Esatto, allora il prossimo pezzo infatti si chiama In mezzo alla nebbia. Cioè, Luca che diceva no. No? No, è vero. Cioè, è vero, nebbione da umido e da caldo. Da caldo, ma era una nebbia non da poco stamattina. E vai. Ora fisso un po' se genere, come riuscissi a leggerci il futuro. Radio Veneto. Spot. Radio Vigiova sbarca su Blu Radio Veneto. Eccoci, eccoci, Radio Vigiova prontissimi a partire per una nuova puntata. Ci ciao. Siete? Ciao Enrico, ciao. Certo che ci siamo. Ciao siamo Miriam, qui. Ciao Don Andrea. Ciao Enrico, ciao Miriam. Ciao Don Andrea. Ciao Miriam. Ciao Enrico, ciao Don Andrea. Ciao, ciao. Bene, okay, saluti, saluti che abbiamo fatti. I tre simpatici conduttori dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Vi aspettiamo con Radio Vigiova domenica alle 23. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Io questo pezzo l'avevo segnato prima di vedervi perché mi interessava molto l'arrangiamento. È un bel pezzo con certe sonorità. Sì, inglesi, decisamente inglesi, però particolari. A me interessa sapere come l'avete arrangiato, come l'avete costruito. Ecco, l'avete così. Costruito così. Questa chitarra un po' effettata. L'abbiamo praticamente facciamo la stessa figura di quello di prima. No? Che pezzo c'è adesso? No, direi Luminosa, non Luminosa. Stavamo parlando del pezzo io di prima. Io parlo di Luminosa. Di Luminosa, sì, okay, allora ero giusto con il riff, era quello. Sì. Il pezzo che suoneremo dopo, ormai svegliamo. Guarda, è un pezzo molto... Cioè, dovevamo riuscire a dare con la chitarra una sorta di introspezione. Sì, una sorta è introspettivo di... al 100%. Esatto. E praticamente l'idea era tentare di tenere il riff di chitarra il più aperto possibile. Cioè, ho del capito. Tipo, se uno sente sempre questa nota suonare, che risuona in continuazione. Ipnotica, praticamente. Pezzo di... Esatto, cioè praticamente in un modo o nell'altro... Un circolo. Esatto, viene sempre presa la tua attenzione. Esatto, sì, è vero. E quindi ti mette in uno stato di incoscienza, diciamo qua. Dove tu stai lì concentrato, aspetti finché non arriva questo ritornello che è tranquillissimo... Che è molto cantautorale come ritornello, sì, certo. Nel senso proprio accordi precisi. Però il finale non è cantautorale. No, il finale è un po' più particolare. Appunto, mi interessava anche sapere per quello. Beh, come è nato? Com'è per nato quello il finale, sai perché ti faccio questa domanda? Perché il finale aveva qualche reminiscenza psichedelica, possiamo dire. Infatti, io stavo per dire appunto il circolo, questa cosa che ti rimane, e poi arriva l'apertura melodica. È un po' come l'effetto di sostanze psicoattive, diciamo. Diciamo però, che, visto che l'hai detto tu, colgo la palla al basso. Insomma, cioè, questa cosa che gira, e a un certo punto si apre d'improvviso e ti sposta completamente in un altro mondo musicale. Prima è tutto abbastanza cupo. Sì. E poi invece apre un po' come se fosse lo sbocciare di un fiore, di una stagione, di qualcosa. Ma è bello, il testo parla appunto, come sentiremo dopo, di un viaggio nell'universo, nello spazio, alla ricerca di qualcosa. Può essere un'idea o può essere una persona, un amore, quindi è questa ricerca, ma comunque di un qualcosa che forse è irraggiungibile, inarrivabile, e quindi si associa abbastanza bene alla psichedelia e a un viaggio magari mentale. Certo. Che, e come lo fate dal vivo questo pezzo qua? Stessa, cioè, simile al disco, o lo ampliate, lo allargate, lo rendete più piccolo musicalmente? No, questo qua è, diciamo, è suonato praticamente live, cioè come pezzo, nel senso che ha pochissima roba. Ho capito. La regola era proprio quella, cioè utilizzare poca... Ma il disco è stato suonato live al 100% o no? No, è live, nel senso che non c'è nulla di modifica. Sì, sì, quello lì, sì, sì. No, però tipo alcune cose sono state fatte in contemporanea. Attenzione al naso, che sta per toccare la parete. Occhio, occhio, spostati, Maurizio. Perché alcune chitarre ogni tanto le abbiamo rifatte, riscancherate. Poi anche perché, sai, quando tu devi giustificare il fatto che stai in studio 3 mesi, cosa fai? per quello. Però tipo... la regola non era rifare la chitarra bene, era rifarne una diversa, oppure certo. Rifare gli errori sono rimasti tutti. Io molte di quelle chitarre, ma credo anche Luca, sì. quando siamo ritornati a casa alla fine del disco abbiamo detto qua che cosa avevo fatto? Ho capito. E quindi c'è... Io ci abbiamo messo altri 3 mesi per riprovare a fare i pezzi dal vivo. In realtà noi siamo la cover band dei Tilt, cioè noi stiamo rifacendo quello che avevamo fatto allora, però... Ma tutte queste idee sono andate perdute oppure rimangono nei cassetti? No, sono finite nel disco. Sì, però, non so, faccio un esempio. Ok. Luminosa l'avete provata una volta, due volte. Le prove, cioè la prova precedente alla seconda prova, è rimasta qualche traccia oppure... Sì, è rimasto. Questa voglio dire. È rimasta l'essenza. È rimasta l'essenza. Ecco, diciamo. Cioè, nel senso che il fatto che volevamo questa acustica psichedelica, e quello è rimasto. Si fa una... Quando praticamente si registra, adesso questo è più un discorso da produttore, però secondo me si fa più o meno tipo il gioco delle tre carte, no? Allora, uno vede la carta vincente e quella lì deve essere... E tipo quando si gioca a poker, poi l'esperto magari vinni, però io non ci ho mai giocato, ma cerco di spiegare il gioco del poker. Allora tipo io ho 3 carte, no? Per fare punto, tipo quella che non mi serve la scarto. Certo, okay. E invece quella dubbiosa la tengo comunque dentro, che non si sa mai, magari in futuro viene fuori. Che era forse facciamo anche prima dire che siamo un po' abituati anche a registrarci. Ecco, questo volevo a registrarci questo in sala prove, quindi magari teniamo anche le cose buone, le cose brutte magari, oppure le cose nuove che rifacciamo, poi dopo facciamo come tutto un puzzle, no? Certo. Cerchiamo di fare in questa maniera. Quello volevo capire, volevo arrivare a questo adesso è chiaro il discorso. Benissimo, sono le 22:47 e sarebbe chiaro un altro pezzo dal vivo, cosa dite? Suoniamo appunto Luminosa. Perfetto, suoniamo proprio quello. E oggi come ieri io ti cercherò, la tua immagine davanti a me come un sogno fragile è sempre più distante, anni luce resto dietro te in un'orbita costante, nello spazio ti seguirò. Luminosa come una stella sei, dalla tua luce non svegliarmi mai. Luminosa come una stella sei, dalla tua luce non svegliarmi mai. Senza direzione io mi perderò tra comete, amori, inganni. Di cercarti non smetterò. Luminosa come una stella sei, dalla tua luce non svegliarmi mai. Luminosa come una stella sei, dalla tua luce non svegliarmi mai. Dalla tua luce non svegliarmi mai. Dalla tua luce non svegliarmi mai. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ci stiamo piacevolmente conversando con il Tilt, stiamo presentando il loro nuovo disco e questo era un pezzo molto bello, accattivante, ma molto romantico, nel senso l'hai cantato con un certo pathos, con un certo trasporto, Luca, secondo me. Sì, è un pezzo un po' romantico tra virgolette, che è sempre sì, è un po' sia al romantico decadente, esatto, e c'è la vittoria e la sconfitta in questo pezzo. Dottor Jekyll, Mr. Hyde, esatto, c'è la ricerca ma comunque il fatto di non raggiungere mai questo obiettivo, questa meta. Poi a me è piaciuto un pezzo molto scheletrico, chitarra e voce, dava un certo senso alle cose, secondo me. Devono nascere così, secondo me, i brani. Cioè, se stanno in piedi chitarra e voce, allora stanno in piedi tutto, hai ragione. Qualunque arrangiamento tu metti. Per quello che prima, quando ci facevi le domande su che cosa c'era, in realtà il concetto era, non lo so, il pezzo è quello. Cioè, a noi il pezzo suonava già bene chitarra e voce. Quindi in automatico, sia che ci sia un vestito, che sia pop in paura mai, che sia più rock, più alternativo, più scuro, è sempre un pezzo che ci identifica, che secondo noi funziona. E quando suonate dal vivo, cioè adesso suonate dal vivo in fase acustica, però suonate dal vivo davanti a un pubblico, la versione acustica la fate oppure no? Esiste? Ma abbiamo la possibilità di decidere magari sul momento o poco prima, in base anche al posto, il pubblico, eccetera. Diciamo che noi stiamo per affrontare l'evoluzione delle ombre come disco dal vivo nelle prossime settimane, quindi i pezzi sono stati preparati a dovere in tutte e due le versioni. Le versioni, esattamente. Decideremo di volta in volta, in base al pubblico, se stiamo magari aprendo il concerto di qualcuno, certo, o abbiamo una nostra data in un locale più intimo o una situazione un po' più aperta, decideremo di volta in volta. Se... A proposito delle date, te le ricordi le date prossime? Allora, prossime date sono concentrate nei primi 10 giorni di settembre, perché nel tempo in cui abbiamo registrato il disco sono successe un sacco di cose nella vita dei Tilt. E una di queste è che il nostro buon Marco è andato a nozze. E bene. Quindi dopo complimenti a lui. Complimenti, un applauso. Grazie, a Marco. Grazie, grazie mille. E quindi si farà il meritato viaggio di nozze. Certo. E poi c'è anche, sono altre novità, magari ne parleremo dopo, del bassista. E ringraziamo anche la Char che ce l'ha tenuto a casa. Esatto. Che gli ha permesso di venire qui stasera. Questo non è una cosa semplice. Non è facile. No, assolutamente. Quindi la ringraziamo. Abbiamo ritardato i vari viaggi di nozze dopo per le varie date. E la musica è forse più forte del viaggio di nozze. Cosa dici? Ma diciamo che d'estate è più forte, d'inverno è più forte, d'autunno no, in realtà è... Beh, oh, lei lo sapeva, cioè nel senso, credo abbia sposato... Ti ascolta, a me. Eh? Beh, lo so, gli ho anche dato il sito. Credo abbia sposato sia me, tanto non è che può rispondere in questo momento. Cioè, hai un telefono di fianco. Credo che... Pensato, diamo il numero di telefono di Blu Radio Veneto. È scritto qua, 049 87 56 423, quindi... Speriamo abbia perso le prime tre cifre. Comunque, in ogni caso, ha sposato sia me che la musica. Certo. Se no, se non sposava tutte e due, non era sincera, ecco. Perfetto. Ritornando a noi, ritornando ai concerti, suoneremo il 2 di settembre a Chiari, in provincia di Brescia, in apertura a Omar Pedrini, che è un'altra persona che abbiamo incrociato all'Esagono, una persona fantastica. Com'è persona Pedrini? È un personaggio anche lui veramente unico. Fa delle belle cose su Rai 5, lo vedi qualche volta? No, io non guardo la TV, ho buttato la televisione fuori dalla finestra. Okay. Come si suol dire. Fa delle cose molto interessanti. No, sì, è bello. Molto bello. Dimmi, allora, scusa. È comunque un personaggio unico, fantastico. E il 2 settembre saremo con lui a Chiari, in provincia di Brescia. Il 7 di settembre saremo in apertura ai Modena City Ramblers a Lecco. Stavo per dire Lecce, ma diciamo da un'altra parte, a Lecco. Aperta al Partito Democratico di Lecco e Monza. Esatto. E suoneremo il 9 di settembre ad Alessandria, concerto nostro totalmente acustico al Caffè degli Artisti. Bellissimo, mi pare un posto meraviglioso. E c'è qualcosa in forse del 10 o l'11, ma nei prossimi giorni lo comunicheremo sulla nostra pagina Facebook / Tilt Italia. Bene. E poi per adesso andiamo a ottobre, il 9 a Rubiera, nostra città, al circolo, al disco bar Il Matterello. E poi suoneremo vicino a Correggio in un bellissimo circolo Arci che si chiama I Vizi del Pellicano il 22 di ottobre. Una cosa vi volevo chiedere, sì, all'Esagono è stato inciso il disco, però è stato mixato ai leggendari Abbey Road Studios di Londra. Come mai? Perché volevamo che suonasse al top. Ah, ok. Poi Valerio ha fatto una domanda a Marco. Sì, esatto. Ma gli ha detto: ma allora, a te dove ti piacerebbe mixarlo? Allora lui ha detto: un posticino a caso. Vabbè. Andiamo ad Abbey Road, no? Io gli ho detto, è chiaro. E lui mi ha guardato ridendo e mi ha detto: va bene. Allora già lì, ecco, io lì sul momento ho detto: ho sbagliato, dovevo chiedergli chissà che cosa, in Australia, andiamo via in Australia un mese, lo rifacciamo tutto là, esatto. Una roba del genere. Però nel frattempo credo che, sempre per spiegare il discorso della mezcal, non esistano delle realtà di discografica che permettono a una band comunque indipendente agli inizi di fare quello che vuole. Certo. Quindi secondo me le major tipo Sony o cose così dovrebbero prendere spunto, ecco. Dobbiamo sempre ricordare la Mesca ha lanciato degli artisti che poi hanno fatto grande carriera. Sì, ha lanciato il rock in Italia. Esatto, ha lanciato la musica in Italia. In Italia, perché Ligabue è suo, quindi anche non tanto indipendente, perché lì è poi grosso. Poi dopo c'è gli After Hours. Gli After Hours, Subsonica, cioè, lo stesso Mao, sì. era della Mesca. Cristina Donà. Morgan. Il Blue Vertigo, quindi, il Modern Street Ramble. Lui è Soave, cioè, Soave si chiama... Sì, Valerio. Per noi è Vale. Un'idea molto lungimirante delle cose e ha continuato a portarla avanti nonostante le difficoltà, e questa è una cosa positiva. Realtà che sono sopravvissute nonostante magari alcune sono un po' scomparse oppure qualcuno ha smesso, si è sciolto eccetera, ma sono un po' lo specchio secondo me di quanto sia in parte fasulla la realtà che ci propone magari il mainstream, cioè forse nelle grandi classifiche, nei grandi network eccetera non compaiono più così tanto questi nomi, no. Ma a casa delle persone questi CD sono lì. Certo. E ogni volta che esce un disco i ragazzi li vanno a comprare. Certo. E c'è grande, grande attaccamento a queste band. Ed è importante. I live. Perché se uno pensa di andare a vedere un live di amici o cose così, Cioè, diventa dura, cioè, arrivi subito in prima fila. E abbiamo la polemica giusta che la TV ha distrutto parte della musica. Ma no, il concetto è che la TV è una foto dell'Italia. Esatto, sono le persone che stanno distruggendo la musica. Se compri quel disco, allora se ti piace quel tipo di cose, costruite davanti ai tuoi occhi, sera dopo sera, che sia un talent o sia un altro, se alla fine compri quel disco, sei tu responsabile di quello che sta succedendo alla cultura in generale, perché... Se parliamo solo di musica, ok, ci sono alcuni talent dedicati, ma se parliamo della danza e queste cose, ci sono ragazzi che hanno studiato decine di anni classica, danza contemporanea eccetera, che si stanno spezzando le ginocchia a vedere queste cose. È vero, sono d'accordo con te. È secondo me un'offesa, un insulto alla cultura e all'arte del nostro paese, un paese che dovrebbe essere in prima fila per quanto riguarda l'arte, invece stiamo dando spazio forse arrivo a esagerare, però stiamo dando spazio a una terra di cultura come l'Italia a tanta spazzatura, vestita bene, colorata bene, pettinata bene, truccata bene, che però anno dopo anno viene rimessa nel cassonetto e ne viene tirata fuori un'altra. Certo. Con questo non è che devono per forza comprare il disco dei Tilt, cioè, no, devono assolutamente comprare il disco dei Tilt, perché solo così riusciremo a combattere il nemico. Bene, è una bella cosa. Quando volete, senza fretta, senza Luca, fretta. Tu hai ragione, bisogna portare avanti un'idea. Se l'idea è giusta, perché non portarla avanti? Bisogna portarla avanti, c'è poco a fare. 23 e un minuto primo. Adesso, in scaletta, io penserei di fare sentire un altro pezzo da disco e poi abbiamo il cosiddetto giochetto. Te lo ricordi il giochetto? No, l'amnesia. Oddio, non eravamo preparati. Ma è semplice. Intanto facciamo sentire un pezzo da disco. Andiamo. Ok. Distanze così, quella notte ho scelto questa vita, potessi tornare indietro, lo rifarei. È vero che basta poco per rovinare tutto quanto, distratti trovarsi in catene senza perché, ma da qui ogni cosa è chiara, noi liberi, pensieri persi. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, siamo qua, stiamo parlando, conversando con il Tit piacevolmente, parliamo di Rivoluzione delle Ombre, il loro nuovo disco, e facciamo il solito giochetto. Siamo leggermente in ritardo? No, non poco, sono le 23.04, in ritardo di solo 4 minuti, secondo gli orari previsti. Il giochetto è semplice, i tre dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi, ma è l'isola dei Rock Wave, quindi la nostra isola. Chi comincia? Comincio io. Vai, vai, vieni vicino al microfono e cominci te. Allora... Diciamo che il primo che porterei è il primo singolo del primo CD che hanno fatto i Coldplay. Bellissimo il primo CD di Coldplay. Il secondo, io sono partito degli U2, quindi porterei The Joshua Tree. Ah, come mai porteresti The Joshua Tree? Io sono perfettamente d'accordo perché con te. Perché secondo me ha... Il più bello che hanno fatto, secondo te? No. No. Però... C'ha dei pezzi dentro che secondo me sono... possono diventare o sono già la storia della musica, sì, tipo certo. With the Without You, esatto. Where the Street Have No Name, certo, per citarne due. E invece l'altro è sempre degli U2, ed è il mio primo CD, credo che ho comprato, ed è Boy. Ah, Boy, un altro disco storico per loro. Sì, per me è meraviglioso. Un po' parafrasando il vostro titolo, l'evoluzione della specie U2 con Boy, praticamente. Eccoci qua. Michele, No, secondo me io sono un patito degli U2, quindi potresti dirmi qualsiasi cosa. Ma... Quindi facciamo gli auguri a Bono, che è andato in ospedale a Monte Carlo, lo sai? Questo non lo sapevo. ha avuto un malore, è andato in ospedale a Monte Carlo, almeno è la notizia. Non lo sapevo. Facciamo gli auguri a Bono, praticamente. Ok, vai Robby, lei tocca a te. Adesso il bassista si deve allungare, ecco. Io sono un patito, questi qua mi odiano perché cito sempre i soliti gruppi, però per me sono quelli. Porterei Angel Dust dei Faith No More. Grande. bene, un po' di rock abbastanza energico. Poi direi appunto il 4 dei Zeppelin. Cosa ti piace oltre al classico che tutti sanno? Oltre al classico che tutti sanno, cosa ti piace del 4 del Zeppelin? Ah beh, il 4 faccio fatica, diciamo, a non ricordare una canzone che ti annoia, perché certo. È un album secondo me completo dal primo all'ultimo pezzo. Esatto. Poi vabbè. Ecco, sono qua sotto in sottofondo. E poi per finire sono indeciso tra i Black Rose e Ben Harper. Come mai questo Black Rose e Ben Harper? Cioè non... Sì, hanno un collegamento. Sono arrivati in periodi diversi della mia vita, quindi io, per dire, vabbè, i Black Rose li ho ascoltati. Black Rose sono un gruppo abbastanza tosto, dai primi anni 90, poi li ho sempre seguiti, così. E poi dal vivo i Black Rose sono bravi, molto bravi. Avevano un tiro che era abbastanza... E cosa ne pensi del nuovo disco di Ben Harper? L'ho un po' perso, Ben Harper. È un po' perso. Perché, secondo me, almeno io non sono molto sul, diciamo, suonato... D'appoggio, a me piace la musica suonata, ritmata. Io mi ricordo appunto Ben Harper quando suonava con gli Innocent. Sì, capito. Prima che aveva un bassista che era straordinario. Una base ritmica dal vivo che ti rimaneva sullo stomaco dall'inizio alla fine. Insomma, è leggermente mutato. È molto più leggero. È molto più leggero, tra virgolette, sì. A livello musicale, sì, è bravo, testi, però non lo so, perché io l'inglese non è che è sempre bravo, però ha mutato l'andamento, il percorso, sì, decisamente sì. È un po' meno estremista di una volta, nel senso tra virgolette, chiaramente. Infatti mi ricordo che dal vivo lui aveva una metà concerto dove era suonato, poi l'altra metà si metteva a sedere con la chitarra sulle gambe e cominciava a fare dello slide. È vero, però rimaneva sempre lui e la chitarra e la voce. Certo. Ok, tocca a te. Io non posso più suonare la chitarra, no, esatto. Tu non togli il microfono. alla mano. Ma io porterei tre dischi, uno completamente diverso dall'altro. Bene, il primo è fondamentalmente il disco che per primo mi ha fatto sentire una scossa per la musica, ed è un gruppo che nessuno sicuramente citerà tra di noi, e l'album è Seven Son of a Seven Son degli Iron Maiden, album del 1988. Come mai ti sei buttato sugli Iron Maiden? Perché è stato il mio primo grande amore a livello musicale. Avevo sentito prima altre cose, ma proprio come se fosse musica proprio d'ascolto. Quando ho sentito questo album mi ha scosso molto, ho detto io devo fare qualcosa. Avevo iniziato appunto a suonare la batteria, poi mi sono andato al canto. Qualcosa di irraggiungibile per me, perché il canto di Bruce Dickinson, eccetera. Chiaramente sì, sono d'accordo con te. Io non amo quel genere là, però lui è molto bravo. E c'è il disco che proprio mi ricordo e mi ha fatto vedere la musica, sentire la musica in una maniera completamente diversa. Prima ascoltavo, diciamo, robaccia. E un disco invece completamente opposto, credo che mi viene in mente così in questo momento, probabilmente è Magical Mystery Tour dei Beatles. I grandi Beatles, voi che siete amante della musica inglese. Soprattutto, appunto, prima parlavamo degli Stones, io sono un po' più sul versante Sei pro Beatles. Sono un po' più sul melodico, sullo psichedelico di quel genere lì, molto. Anche se qualche volta anche romantico. Loro pestavano bene. Sì. Perché John Lennon quando voleva pestava bene su certe cose. Sono molto, mi piace questo disco soprattutto per Full on the Hill. Per, appunto, io è un pezzo meraviglioso. Per pezzi così. Pezzi molto. Abbiamo sempre i Beatles in un carconato classico. I classici vanno sempre bene alla salute. E il terzo disco è forse il disco che non ha in sé le caratteristiche di questi due, o forse più del secondo. Naturalmente l'evoluzione delle ombre dei Tilt non può mancare. Mi pare giusto. Ho fregato gli altri due, forse Marco voleva dirle. Non avevano in scaletta sicuramente. Tocca al nostro batterista, oggi informazione ridotta con la batteria che ho appena. È vero. Io potrei Bruce Springsteen, Chuck Berry. No, glielo rubato. Me l'hanno già rubati loro. No, però porterei Asylum Main Street dei Rolling, visto che li abbiamo citati. Come mai? Perché è un disco da ascoltare dall'inizio alla fine. È stato riscoperto, ripreso, giustamente un capolavoro un po' nascosto. Ma non è vero che era nascosto, è un grande capolavoro. Non l'hanno capito. È un disco, come diciamo da noi, della Madonna. Esattamente. E poi porterei, perché io ero un amante, cioè sono un amante dei primi due, però visto che Vinny li ha già citati, cito un disco che mi è piaciuto moltissimo e mi è rimasto nel cuore perché per un braccio rotto non sono riuscito ad andare a vedere in Nirvana, l'Unplugged di New York, cavolo. Anche se ne avrò mai un disco bellissimo, e non sono riuscito ad andarci purtroppo, e quindi quello lì sicuramente è un disco che porterei bellissimo. Beh, forse uno dei più bei Unplugged mai, no, mai fatti, per me, forse il più bello. Secondo me bello. È l'unico Unplugged, cioè... Boh, per me è bellissimo. Bello. È l'unico che c'è stato. Sì, è riuscito a fare delle cose che in quel momento, anche se era in unplugged, strepitose. Sì, praticamente. Non l'ho mai visto e quindi mi è rimasto lì. Chiaramente io l'ho sentito da disco, non l'ho mai visto. Io l'ho visto i film. No, però ero a Modena, ma non sono stato fine. È stato il destino così. Destino, mio padre non mi ha fatto entrare. E invece mio fratello sì. E l'altro è vero. E l'altro porterei, perché amo moltissimo i Counting Crows. Però direi che un disco rock Fasetini di Dan, intanto che fa bene alla salute, tipo Ten dei Pearl Jam potrei portare. Ecco, citiamo un disco epocale secondo me. Perché Pearl Jam è un gruppo che ha sempre fatto le cose diverse disco dopo disco. Io ripeto, i Ten dei Pearl Jam lo considero il disco più bello che loro hanno fatto. Nonostante hanno fatto tanti belli e interessanti, però Ten è quello epocale, ripeto, per loro. Ha aperto una strada assoluta, secondo me. Dopo ha fatto dei bellissimi dischi. Sì, gli ultimi due comunque sono belli. Sono molto belli, sì, esattamente. Poi li ho visti dal vivo a Bologna. Come sono dal vivo a Bologna? Li hai visti? Però strepitosi. Non pensavo, sono rimasto veramente scioccato. Lui è grande. Lui è un grande. Può fare un po' di tutto fa lui. Tutto di più. Esattamente. Voce bellissima, bella. Vedi, eccola qua. Tocca a te. Allora, dato che gli italiani sono pochi, citiamo degli italiani, dai, perché ci vogliono degli italiani sull'isola deserta. Qualche volta sì. Allora, io porterei Perturbazione, bene, Canzone allo specchio. Interessante, Perturbazione, un gruppo che... è tutto panorama indipendente, ma merita. Almeno a me è un disco che mi ha lasciato parecchio. È quello, un gruppo che non è mai stato apprezzato come doveva, secondo me. D'accordo. Secondo me hanno fatto della roba incredibile. Esatto. Soprattutto, il disco ancora prima, dove c'era Agosto. Agosto tutti lo ricordo per Agosto, sì. Ma non hanno fatto solo Agosto. Esatto, il pezzo dopo, della Mescal, tra l'altro, il disco dopo. Secondo me è ancora più bello. Dei pezzi incredibili. E poi dopo Benvenue. Un altro personaggio che può fuori, che non è che sia fuori del giro, vuole essere fuori del giro, ma è un personaggio di grande, e tra l'altro grande... io lo sono andato a vedere a Reggio poco tempo fa e ha fatto il disco nuovo. Esatto. Però porterei Le Labbra come disco, che c'è un pezzo che si chiama La Schiena che mi piace molto, ma mi piace tutto quel disco lì. E poi, devi dirlo. Vabbè, allora sarei indeciso. Dimmi. O porterei Paul Weller nel disco, quello che era già da solista da solo, oppure... Però insomma, Paul Weller credo che forse lo lascerei da parte. Se vado nell'isola deserta, porto Borturan. Ah, del boss. Il boss, adesso che se n'è andato, quello che era la... Esatto, è un peccato. Esatto. Quindi lascia caro Chuck Berry, Radiohead. Ma Chuck Berry arriva. Sì, ma tre dischi comunque sono pochi. Non lo so, sono pochi. Io un però... posto per altro, un altro uno o due lo trovo. Lo so. Ma lui, quando lui ha citato Borturan del boss... In realtà andavo sull'isola deserta con solo quello, però era giusto portare anche quello italiano. Quando sono il sax un personaggio simile, come puoi dire? Incredibile. Era incredibile. Tra l'altro, c'è un live su YouTube che consiglio sempre da vedere, dove c'è Springsteen e Chuck Berry insieme. Ah, due mostri. Allora, sacri. C'è Chuck Berry che viene invitato da Bruce Springsteen sul palco e cioè di colpo capisci che Chuck Berry è il numero uno, ancora più di Springsteen. Non vi racconto niente, così ve lo andate a cercare su YouTube. Anche il video di con Keith Richards, anche quello lì è bellino, con Chuck Berry. Allora vi facciamo... Sì, cosa facciamo dal vivo? Siamo un pezzo? Allora guarda, ti facciamo... Ti ringraziamo come Michele che ha scelto tutta la colonna sonora, è stato bravissimo. Vai. Allora, ti facciamo Come Se, che è il nostro singolo. Esatto, il nostro singolo video che si può vedere sul nostro canale YouTube / Tilt Italia, tutto attaccato. E questa è acustica, molto bella secondo acustica, me. Acustica, e scritta anche questa in collaborazione con Mao. Bene. Video registrato in collaborazione con l'Asti Rugby, dove si vedono alcune scene di partita e noi. Ci hanno preso a spallate e mazzate. E video che è stato in anteprima esclusiva sul sito della Gazzetta dello Sport per parecchio, e ancora sul sito della Gazzetta. Noi ringraziamo naturalmente Asti Rugby, Gazzetta, Mescal e quant'altro. Questo è Come Se. Ok. Un brivido lungo la schiena e l'ansia che mi sale, io mi rimetto subito sotto le coperte. Oh, e oggi non ho voglia, è un altro giorno che si muove, e alla televisione tra plastica e dolore c'è un mondo che si arrende. E ho la testa che fa male, ma non me la sento di accendere la solita speranza, e scivolerò via come c'era, come se non me ne importasse più niente, come se scivolassi via, come se non me ne importasse più niente. Mi sento apatico, non riesco più a provare emozioni. È un brivido lungo la schiena, il solito dolore che ancora lì non passa, non passa mai di mente, e non passa mai la voglia, ma non me la sento di accendere la solita speranza, e scivolerò via come c'era, come se non me ne importasse più niente, come se scivolassi via, come se non me ne importasse più niente. Mi sento apatico, riesco più a provare emozioni. Più niente, come se scivolassi via, come se Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito quindi un altro pezzo dei Tilt, come se, versione assolutamente unplugged, versione acustica, questo è il nuovo singolo praticamente. Esatto. E vorrei chiedervi una cosa, oltre a Mao, chi ha partecipato al disco, oltre al fonico, qualche altro vi ha dato una mano? Allora, avevamo un quartetto d'archi, che praticamente... Adesso mi sfuggono i nomi, però. Va bene, c'è un quartetto d'archi che vi ha dato una mano. Che esatto, che hanno fatto, perché volevamo a tutti i costi, è sempre la solita storia. Dove vuoi andare a masterizzare? Da Beirut. Qua volevo, volevo degli archi, va bene, che cosa vorresti? Un quartetto, va bene, prendiamo un quartetto. Era un po' una cosa del genere. Ho capito. E tra l'altro bravissimi, secondo me hanno, diciamo, hanno dato realtà ad alcune parti del disco che non riuscivamo a rendere come si doveva. E una di queste appunto come se, cioè, esatto, come se, esatto. Diciamo, che è una versione, cioè infatti. Questa l'avete fatta un po' più contrastata, un po' più potente secondo me, mentre nel disco è meno potente, più acustica. Io l'ho sentita così, non so se siete d'accordo. Sì è verissimo, abbiamo dato più valore agli archi perché quando eravamo lì li ascoltavamo e dicevamo bellissimi. Cioè volevamo mettere solo quelli praticamente. E la scelta del singolo come è nata? Avete scelto voi assieme a Mao il singolo e mentre Valerio non ha partecipato. No, guarda, la scelta del singolo è che comunque noi siamo legati un po' a tutti i pezzi. Più o meno alcuni ci piacciono di più di meno. Però chiaramente la nostra mamma, che è la Manu. Certo, chiaramente ha dato lei. Di nuovo. No, è positivissimo invece. È lei che con l'occhio giusto, secondo me, e soprattutto anche leggermente più esterna da noi, certo, rispetto ai pezzi, perché certo, noi li sentiamo nostri, è in grado di scegliere il singolo giusto. E per adesso in realtà lei ha scelto e noi eravamo sempre concordi, quindi era come se avessimo scelto noi. Chiaro. Che abbiamo scelto noi. E questa vuol dire che... Se non fossimo così d'accordo... Dovevamo essere d'accordo. No. Cancellate dalla deposizione quest'ultima affermazione. Tagliamo. No, però in effetti è così. Cioè, sì. Quando sei troppo dentro al disco, ogni pezzo è un singolo, ogni pezzo è forte. Ma ci vuole sempre qualcuno che... Da esterno ti dica... Ma poi guarda, è un team. Cioè, nel senso, lui si occupa di cantare, io di suonare la chitarra... la Manuela si occupa di queste cose. Certo. Cioè la Manuela è tanto Tilt quanto noi Mescal. Chiaro, capito. E Valerio la stessa cosa. Cioè c'è una bella, questo mi piace. Intenti assieme, una comunione di intenti praticamente. Sì, questo in realtà quello che vi stiamo presentando stasera è il nuovo disco della Mescal. Va bene. Salutiamo quindi un'altra volta la Manuela, che ci ha portato altri gruppi della Mescal, chiaramente qui dentro in radio, è una cosa molto positiva. Etichetta indipendente, in etichetta che è sempre andato avanti in una certa maniera, al di là di tutti i discorsi che si possono fare. Pienamente d'accordo. Ok, sono 23:23, io proporrei un altro pezzo da disco, non so che traccia avete scelto, ti ricordi? Allora, la traccia è la numero 10 del disco e il pezzo si chiama Angelo. Perfetto, lo sentiamo, ok. Sono si prendono gioco di noi, e tutto quello che tu fai per me non è abbastanza, no, non è importante, potrei fare di più, almeno esserci, non sono. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Qua il microfono è, avevo pigiato, ma avevo pigiato male probabilmente. Saltato il tasto. Sono 23:28, siamo assolutamente in diretta e stiamo parlando piacevolmente con i Tilt. Questo era il pezzo che abbiamo sentito, Angelo. Perfetto, Angelo. E c'era un bel assolo, adesso me lo spieghi l'assolo, come l'hai guarda, fatto. In realtà farà ridere la cosa, però più o meno gli assoli nostri nascono in questo modo, cioè tipo molto in simpatia perché noi poi in studio ci divertiamo. Certo. Quindi tipo io prendevo in mano la chitarra, uno faceva rec e buttavo lì delle cose quasi a caso. E l'importante era che non fossero delle cose, cioè né troppo epiche, cioè cose tipo... perché gli esercizi si fanno io avrei a casa. Apprezzato molto comunque perché... no, invece io non sono d'accordo, cioè secondo il batterista me... era d'accordo sul tuo assolo così. Sì secondo me alla fine dovevano essere d'accordo, se no non lo facevo. Però dico, al di là di quello, secondo me uno fa le cose veloce, i tapping. Beh, bello, fammi vedere una cosa. Vabbè, questo qua è il tapping, sì, no? Tapping, sì. Che però uno deve fare a casa come esercizio, secondo me. Non è che lo deve fare nei dischi per forza, propinare. Beh, dipende da quali dischi ascolti. Scusi, ho appena citato, prima citavo gli Iron Maiden, c'è tutto un... milioni però, di persone che vogliono sentire sta roba qua. Però io dico, io invece sono rimasto più legato a, ad altre cose, perciò tipo due note e quelle due note se arrivano. No, sono d'accordo, sono d'accordo. Se arrivano due note è meglio che 200.000 che poi alla fine uno due note fatte bene. E allora praticamente la canzone è in mia e faceva questa cosa qua. Allora io avevo deciso di farlo, l'ho fatto più o meno al contrario, perché andavo a caso, però stava bene, ho fatto una cosa tipo... Un po' endixiana insomma lui. E sono tutte stupidate, nel senso che univo una cosa e l'altra, però... In quel momento, un po' per magia così, mi piaceva. Ma chi dopo queste... Io non penso che siano stupidate. Beh, queste cose che tu hai fatto... No, che... vabbè, magari un tecnico arriva e dice, vabbè, io le facevo. Però, dovevi dire così. Invece che era stato studiato per settimane e il produttore ti ha tenuto lì anche alla notte. Cioè, non puoi svelare no, i nostri segreti. Quasi tutta questa roba, quasi tutto il disco. Infatti, il problema è quello che io non mi ricordo mai quello che facevo. È perché è sempre così: cioè, tipo, diciamo, fai la chitarra, sì, sì, e io facevo la faccia di quello pronto. E poi dopo in realtà. Ma Luca, approvava i tuoi assoli, Luca? Io li approvavo perché devo provarli. Chiediamo tutti quanti. Luca ha parlato. Il nostro bassista cosa li approvava? Un attimo che faccio palestra. Aspettate. Qua scatta il licenziamento. Occhio, Vabbè, io appunto sono dell'idea che comunque, come diceva giustamente prima anche Marco, insomma, gli assoli più belli che sono rimasti più nella storia della musica, soprattutto rock, sono quelli due accordi fatti bene. E lasciate andare, io richiamo tipo i Pink Floyd. Sì, sì, ho capito. A soli che ti rimangono. No, parlavo direttamente nel momento dei tilt io. Ah, beh, vabbè, lì dopo è chiaro che si ci dà, come anche su uno strumento, insomma, dei consigli reciproci dal momento che siamo tutti certo. Una squadra. Ecco. È anche bello io così. Volevo arrivare a questo, ad essere la squadra, quello è importante. Dopo, si sta scherzando in ogni sì, caso. Però sa suonare la chitarra per dire Marco e Luca, quindi chiaramente sono loro che devono mettere in pratica un consiglio che gli viene dato, un suggerimento. Certo. Però il bello è che si ci ascolta. Vedi come si risponde, vedi come si risponde alla domanda, molto composto, dicendo le cose, dicendo e non dicendo nulla. Passiamo a parlare al batterista che ha parlato poco. Cosa dici? No, il batterista non è mai d'accordo. Ma anche il batterista ha la sfiga di essere sempre. Deve essere sempre pronto. E quando c'è qualcosa che non va, si girano tutti e dicono: ma cosa stai facendo? Scusa, non sei a tempo. E allora no, c'è sempre questa lotta. E frontman cosa dice? Ha difficoltà il frontman? Il frontman andiamo d'accordissimo. Sì. Anche perché ho letto un'intervista di Vasco Rossi che dice che un gruppo per arrivare al successo deve. Il batterista deve andare d'accordo con il cantante. Quindi lui dobbiamo andare d'accordo per forza. Sì, c'è molto feeling. Poi abbiamo un frontman comunque sia che suonava la batteria. Anche, quindi Vasco li ha cambiati più o meno ad ogni tour i batteristi. Infatti non so questa affermazione. Quanto... È vero. No, però a parte gli scherzi, no. Cioè... Sì, chiaramente qui stiamo scherzando, però il discorso è questo, che a me interessava sapere e far conoscere gli ascoltatori che c'era proprio un gruppo fra di voi, cioè una comunione di intenti, questo era importante. Al di là degli scherzi, al di là, cioè quando avete deciso di fare un progetto, di portarlo avanti, lo portate avanti. No, ma difatti la cosa bella è che ci puzzecchiamo sempre. E quindi lui poi soprattutto serve poi per crescere. Però serve per crescere. Esatto, questo è importante. Nonostante ogni tanto, come tutti i gruppi, però è importante. Ma le discussioni nei gruppi sono fondamentali per poter portare avanti un progetto, qualcosa. Questo per approvare magari una solo, comunque una parte. Ma nella stessa maniera anche per dire no, questa parte non va bene, certo, va bene. Cioè, abbiamo... tipo quando faccio qualcosa io non va bene. Vabbè. Ma è una battuta, dobbiamo essere simpatici anche. Ma con lui lo facciamo sorriso, per divertimento. È bello che sia così. 23:33 suoniamo qualcosa, cosa adesso? Adesso suoniamo un pezzo che è molto importante per noi, perché affronta un tema che viene equamente deriso e comunque seguito in maniera molto appassionata. È un problema che è visibile in tutto il mondo da ormai tantissimi anni e sembra venire fuori da moltissimi, molti più anni di quanto si creda. È il problema delle scie chimiche. Ah, capito. È un problema che è visibile, di cui tutti dovrebbero essere consapevoli, perché basta alzare ogni tanto lo sguardo. Ho sentito tra l'altro una persona con cui ho parlato del problema delle scie chimiche, della questione delle scie chimiche, e dirmi: ah, sono quelle scie che quando le vedo vuol dire che qualcuno mi pensa. Cioè vengono affrontate in questa maniera come una stella cadente. Mentre in realtà... No, perché è anche più semplice, dai, da vedere. Sì, però giuro, mi è venuto un brivido lungo la schiena e oggi non ne ho voglia, perché in realtà ogni tanto è evidente il fatto che ci sia una mano pesante di non si sa chi dietro questo problema. Ecco, vengono creati proprio dei veri e propri reticolati nel cielo, e avendo molto tempo come ce l'abbiamo noi per bighellonare e guardarsi guardare per aria, questi reticolati poi vanno proprio a formare delle nuvole o delle patine nel nostro cielo di materiali che ormai è stato provato da ricercatori di tutto il mondo, che ricadono sul terreno, inquinano la terra, uccidono la terra, uccidono le piante e molto probabilmente uccidono anche noi. Fanno un po' male anche gli esseri umani. No, secondo me sono tutte balle, fanno bene. Esatto. Fanno bene. C'è addirittura qualcuno che le chiama scie comiche, proprio perché secondo me c'è qualcuno che ha la dote innata per dare contro a spada tratta, così senza neanche informarsi. Questa cosa è evidente, c'è un bellissimo documentario che si chiama What in the World Are They Spraying? Di un tale, credo che si chiami Peter Murphy o qualcosa del genere, che affronta veramente nello specifico l'argomento scie chimiche e più o meno dà delle risposte, cioè il fine di queste cose, quali possono essere. E più o meno mi trovo d'accordo. Cioè il fine fondamentalmente è in parte medico e in parte anche alimentare, perché togliendo alle persone la possibilità di coltivare cibo fresco e cibo pulito, controlli praticamente tutti. Certo, e i pochi che da dietro che nell'ombra tirano i fili sono proprio questi, quelli che vogliono controllare quello che mangiamo e vogliono vendercelo. Non puoi coltivarti il tuo orticello, te lo vendo io il mio orticello. Tu così sei il mio potere. Certo, certo. Cioè la visione non è così del pezzo, non è così oscura. Però descrive, diciamo, un periodo, forse il periodo che verrà o forse no, se la gente si sveglierà prima o poi. E più che altro parla del fatto che le persone stiano a testa bassa e non mettano mai in questione nulla. Si fidino totalmente di quello che gli viene detto e ormai non ci ricordiamo più com'era il cielo una volta d'estate. Non ci ricordiamo più com'erano le nuvole di una volta. Il pezzo in origine si chiamava Nuvole e poi abbiamo deciso di chiamarlo Scie Chimiche proprio per essere diretti, perché così chi conosce l'argomento può identificare il pezzo. Fuoco. Vai maestro. E come figli del domani una società globale forse è solo un'illusione. Non è semplice per noi, solo numeri oramai. Come schiavi del denaro respiriamo il suo veleno mentre tutto intorno muore. Ma ti chiedi ancora se siamo uomini e perché. Si vedono più nuvole e sulla testa solo scie su di noi. Non si vedono che fabbriche, ma qui non nascono più idee nero. Siamo tanti ma nessuno si ricorda chi eravamo e alza gli occhi verso il cielo. Scie chimiche per noi, siamo docili oramai. Come macchine io e te, una nuova evoluzione, come cambiano le cose. Ma ti chiedi ancora se siamo uomini e perché non si vedono più nuvole e sulla testa solo scie su di noi, non si vedono che fabbriche, ma qui non nascono più idee né eroi. Dolcemente, inconsciamente liberi, dolcemente, inconsciamente liberi, dolcemente, inconsciamente noi non siamo liberi, dolcemente, inconsciamente. Sta solo scie su di noi, non si vedono che fabbriche, ma qui non nascono più idee né eroi né idee né eroi. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, sono le 23:41. Salutiamo la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che sono tra le nostre ascoltatrici rockettare che sentono sempre la nostra trasmissione. Questo era un bel pezzo rock potente perché aveva la finestra di un testo importante e significativo. Sì, mi sono lasciato forse un po' andare nella presentazione, ma è un argomento che mi tocca molto. Mi interessa molto e vorrei ogni volta parlarne sempre di più, certo. Riuscire con poche parole a far entrare l'argomento nel cuore delle persone. È un argomento che è significativo, molto significativo, è forse importante. Forse non c'è molto da fare. No. Cioè da un certo punto di vista non c'è moltissimo da fare, perché cosa fai? No, niente. Prendi una fionda e però devi sapere, quello sì. Devi sapere, anche perché conoscere le cose ti porta a fare un percorso. Certo. Capisci, in genere se segui il denaro arrivi alle risposte più ovvie. E una volta che capisci che seguendo il denaro arrivi al punto giusto, basta, da un punto di vista individuale e a livello collettivo, cercare di non far arrivare più il denaro lì. Certo, sì, chiaro. Perché in fondo il potere che hanno questi personaggi che spargono questa roba sulle nostre teste, che ci avvelenano, eccetera, i soldi che hanno gli diamo noi tutti i giorni. Perché magari compriamo uno snack che sotto un altro nome è sempre di loro proprietà. È vero. Cioè, bisognerebbe conoscere un po' i meccanismi, però in genere le persone non gliene frega niente, cioè a me non me ne frega niente, io voglio andare al mare, io voglio vedere le veline, in genere più o meno le risposte che ottieni sono queste qua. Però soprattutto se qualcuno ha dei figli, vuole mettere al mondo delle creature, ci deve pensare. Bisognerebbe un po' interessarsi. Esattamente. Agli inganni anche del ma il del business potere. È il business, purtroppo è così. Sì, e soprattutto considerando che il marketing, che è legato in maniera molto stretta al business, le aziende spendono milioni e certo. milioni di dollari, molto di più di quanto spendono a produrre per fare il lavaggio del cervello alle persone, per comprare prodotti esatto. inutili. Per lanciare un certo prodotto, chiaro, chiaro. Sono perfettamente d'accordo con te. Però voi lanciate un bel prodotto che è la vostra musica, quello è importante. Esatto. Che al di là di tutto quello che abbiamo detto è una cosa importante, avere un messaggio. La vostra musica è un messaggio. Secondo me è un messaggio che sta andando bene stasera, 23:43, tutto in diretta, tutto live con i Tilt. E ricordiamo però come si può acquistare il vostro disco, che è una cosa importante anche qui. Il nostro disco lo troviamo ovunque, in qualsiasi negozio, esatto, in qualsiasi negozio basta cercare tanto l'etichetta della Mescal, esatto, Mescal, la distribuzione Universal, perciò quindi comunque ovunque grossa. Al di là di tutto lo si può trovare anche su iTunes, chiaramente, scaricarsi il video e tutto il disco. E tra l'altro a giorni, se non erro, forse c'è già, c'è praticamente anche il video adesso è possibile scaricare anche il video da iTunes in modo da avercelo direttamente su iPad o altre cose, altri portali insomma. Esatto. E poi chiaramente dal sito della Mescal, che lì si trova sempre il disco a meno. Certo. E, no, e naturalmente non bisogna scaricarlo da fonti non prettamente legali. Esatto, anche sì, perché soprattutto i dischi indipendenti bisogna fare qualcosa. Perché si deve dare una mano ai musicisti. Pochi euro possono fare veramente la differenza. Non dico che non bisogna scaricare magari i dischi dei grandi artisti, perché quelli non hanno bisogno. Quelli, esatto, ne hanno già venduti tanti. Appunto. Dischi, ma almeno a noi dateci una mano. Esatto. No? Quello è fondamentale. Si può cancellare l'ultima affermazione? No, ma è giusto che sia così. Io ricordo molti anni fa, sempre della Mescal, è stato lanciato un disco degli Extra molti anni fa. Era un disco molto interessante. Gli Extra era un grande gruppo delle nostre parti di Treviso. Poi le cose sono andate un po' diverse. Però era prodotto da Bubola quel disco. Era della Mesca anche quello. Si parla di tempo fa. Vabbè, non importa. Ma in Mesca, Valerio ha fatto tante cose interessanti. Ha lanciato tanti gruppi. Ha lanciato voi. E questa è una cosa mica da poco. Infatti, secondo me è stato bravo. È un precursore. Esatto. Ci ha visto bene. C'ha dell'occhio, Vale. Ci ha visto bene. Ci ha visto bene. Quindi avete detto giustamente una forma di indipendenza totale quando avete inciso il disco. Chiaramente ci sono stati i consigli, è giusto che sia così. No, vabbè, ma tipo, cioè loro fanno parte di Tilt, quindi esatto. È stato tutto indipendente. Cioè, esattamente, è una cosa molto molto interessante. Non succedono più queste robe qua, una volta succedevano spesso, ma le etichette indipendenti, scusa Mescal, ne esistono ancora secondo te? No, secondo me al di là della Mescal no. Bere indipendenti no. Cioè nel senso che no, forse qualcuna sì, qualcuno c'è, ma non sono veri. Cioè il concetto è questo. Il concetto è indipendente. La Mescal, siamo qua, esatto, il problema, il concetto dell'indipendente praticamente è qualcuno che usa un suo budget per promuovere degli artisti e decide di promuoverli non in base a quanto questi potrebbero fruttare, ma anche in base a quanto gli piace un prodotto. Ok, e le major invece sfruttano praticamente i vari soldi delle multinazionali. Cioè uno deve pensare che chi ha pagato il disco di tutti quelli di Amici è quello di Madonna, ipoteticamente. Sì, il disco, capito, di Madonna ha permesso di far uscire tutti gli altri. Certo, ecco. Certo. E quindi in automatico è anche molto più semplice per una major. Cioè lei non ci rimette niente, una parte del ricavato lo battezza in questo modo. Sì. Quindi la major rischia poco, rischia pochissimo. Invece un'etichetta tipo come la Mescal non è interessata tanto, ipotetico, a solamente alla vendita del disco. Oppure non è che ti dice facciamo un singolo e poi vedremo. Cioè lei dice io... Ma il progetto dell'artista. Il progetto è Tilt, quindi vuol dire che tipo Tilt per tre dischi, quattro dischi... Portiamo avanti. Cioè noi dobbiamo farli crescere e ti dà la possibilità di maturare, ecco. È come si faceva una volta. E quindi non è che ti costruisce, ti dà la possibilità di costruirti, ecco, semmai. Esatto, tra concerti, quindi questa, promozioni, esatto, eccetera. Quindi anche solo... E pretendono che tu sia una band live, non una band finta. Sì. Quindi in automatico... Cioè questa è la vera indipendenza. Cioè loro... Ecco, l'indipendenza è che loro... parlano ancora di musica. Ah, ho capito, e questo è chiaro, è fondamentale. Cioè è incredibile, vendono musica e parlano di musica, invece gli altri vendono musica ma parlano di lavatrici ipotetiche. Ho capito. Problema è chiaro, il concetto è chiarissimo. 23:48, abbiamo ancora tempo per suonare qualcosa, cosa dite? Cosa c'è in scaletta? Un ultimo pezzo da disco mi pare o no? Cosa dici Luca? Ma no, volendo facciamo... abbiamo sia da disco, ma preferiamo magari suonarlo. Suoniamo. Dai, siamo qua, ti suoni. Sì, è Madonna. Veramente. Metto il cappello per questo. Esatto. Prendi il cappello. Cosa suoniamo? Siamo Chi mi aspetta. Va bene. Tanto okay. Non è l'ultimo pezzo, no? No, abbiamo ancora circa 10-12 minuti. Dai, facciamo questo. Vai, vai. Le speranze sono fragili. Il silenzio non aiuta mai e ci fa sentire deboli. Di disperati a volte soli noi. Dammi la tua mano, aiutami. Tutto crolla sotto i piedi ormai. Senza l'aria non respiro più. E dei problemi ognuno pensa ai suoi. E non aiuta se guardo fuori. Dalla porta non c'è più chi mi aspetta. E non aiuta se guardo fuori. Dalla porta non c'è più chi mi aspetta. Aspetta. Non ci sono frasi inutili se ti portano lontano i guai. E uno sguardo fa miracoli. Se col cuore sento che ci sei. E non aiuta se guardo fuori. Dalla porta non c'è più chi mi aspetta. E non aiuta se guardo fuori. C'è più chi mi aspetta. Non so se siete d'accordo, si fa molto caldo, lo so, stasera è un caldo atroce, però si supera leggermente, si supera. Ho notato che tutti i vostri pezzi in genere cominciano in modo delicato e poi danno una certa grinta, almeno nella versione acustica che avete fatto stasera. È una scelta che abbiamo fatto, che avete fatto per questa serata, ed è così sempre anche nei live. Ma sono i pezzi, credo, che siano così costruiti. È l'evoluzione dei pezzi. È l'evoluzione dei pezzi. Bene, va bene, va benissimo, va benissimo. Va lui benissimo. Ti vedi, ti dà sempre queste risposte sì. E non sai più cosa dire. No. Noi cerchiamo di costruire un discorso e tra le cose lui bam, chiusa la questione. Visto che si chiama l'evoluzione delle onde. È divertente. No, però beh, non è mica sbagliato però il discorso, assolutamente, al di là della battuta. No, io parlavo seriamente, infatti. Era. Ma il pezzo in questione che abbiamo appena suonato in realtà ha avuto un'ulteriore evoluzione nel momento in cui l'abbiamo fatto. Il pezzo era completamente diverso all'inizio. Si ispirava molto molto di più a un pezzo degli Oasis, che, di cui non ha più caratteristiche adesso la nostra canzone. Il pezzo in questione è Songbird degli Oasis. E nasceva proprio con questo battere molto presente, eccetera. E poi l'immagine degli Oasis era troppo forte e abbiamo smussato un po' le cose. Io ti faccio una domanda velocissima: cosa ne pensi delle due immagini staccate adesso? Mi piacciono comunque molto, tutte e due. Beh, la seconda non è ancora, almeno ho sentito solo il singolo, il disco nuovo non è ancora uscito. Esatto, mi piace l'altro fratello. A dire la verità io sono sempre stato più sul versante Liam che Noel. Mi è sempre piaciuta la sua voce, l'immagine così arrogante. Io sono pro Noel invece. Però in realtà il pezzo adesso di Noel è molto bello, è molto, non mi è mai piaciuto come cantava, lo vedevo molto forzato nei dischi. Della serie, i pezzi li faccio io, devo cantare un pezzo o due anch'io. La esatto, vedevo così. Sì, era un po' così. Infatti. Invece adesso nel suo progetto... Con suo fratello doveva far solo così, eh? Però... Adesso nel progetto però... Però secondo me sarà un disco... Cioè, sicuramente i BDI hanno vinto la scommessa. Nel senso che io non me l'aspettavo. Degli Oasis praticamente. Esatto, e hanno dimostrato di essere loro per adesso sì, gli Oasis. È vero. Il problema è che lui adesso deve dimostrare di essere... il Paul Weller, il cantautore, è vero, però quindi, qualcuno ha detto che sarà un disco di musica pseudo folk inglese, non si infatti, sa il singolo ha quelle questa caratteristica qua lì, esatto. Potrebbe, secondo me dovrebbe fare così per vincere la sua scommessa, sì, perché sennò praticamente va avanti sul carro del fratello, pare però che siano già in causa i due fratelli, questa cosa di copiare comunque nel tempo cosa che era stata detta a suo tempo, certo. I Beatles, vero. Viene fuori anche adesso, cioè, mi chiedo. Una volta c'erano i Beatles, Rolling Stone, poi gli Spandau Ballet, Duran Duran, poi Blur, gli Oasis. Ci devono sempre essere contrapposizioni, se poco da fare. Sì, sì, ma poi soprattutto interne così. Due interne, fratelli che si portano in tribunale. Cioè, vedo un po' una mossa. Ma sì, secondo me sì. Va a finire che poi si riuniscono una sì, sì, beh, chiaro, è chiaro. Hanno detto di no, però andiamo a vedere. Tra l'altro è stato uno dei concerti più belli e più brutti che io ho mai visto. In che senso, Luca? Perché ero al forum di Assago, Milano, degli Oasis, e proprio quella sera hanno deciso all'interno del Filaforum di far rispettare il limite di 92 decibel. Quindi cosa che passarlo, io ho sempre amato gli Oasis, però se gli togli il volume gli Oasis non è che rimane molto. Esattamente. È stato un concerto rovinato, volevo chiedere i soldi indietro ma non c'era possibile. Non è stato possibile. Ok, 23:57, purtroppo abbiamo finito ragazzi, abbiamo fatto 2 ore di musica, ma sono state 2 ore molto positive. Ripetiamo, il disco si chiama Evoluzione delle Ombre, edico Mesca, distribuzione Universa, e siete Tilt, un gruppo nuovo che ha il suo peso secondo me e l'avete dimostrato stasera ampiamente. Grazie, grazie mille, ricordiamo un modo per contattarci è soprattutto la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/tiltitalia, idem YouTube e anche MySpace. Benissimo. Con cosa ci salutate stasera? Con Andarsene Stanotte. Via. Benissimo. Giusto appunto, ce ne andiamo via con Andarsene Ok, via. Grazie a Michele Tosoni in regia. Grazie a voi, grazie tutto, veramente. Grazie a voi. E buonanotte a tutti e grazie. Sono ancora qui, quanti anni dietro di noi, di ricordi e di perché. E non è facile, ma il momento giusto è adesso. Per andare via, via da qui. sarebbe semplice andarsene via almeno una notte che restare legato qui ancora e ancora e ancora e ancora un'ossessione in più. Ma i dettagli sono persi, mi confondi, ma è chiaro che sarebbe semplice, molto più semplice, sarebbe semplice andarsene via almeno una notte che restare legato qui ancora e ancora e ancora andarsene via almeno una notte che restare legato qui ancora. E ancora andarsene via almeno una notte che restare legato qui ancora e ancora e ancora andarsene via almeno una notte che restare legato qui ancora.